Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. Gli assidui frequentatori di Eclettic avranno notato che questa seconda parte è iniziata in maniera diversa rispetto al solito. In effetti, per questo inizio di 2007 abbiamo leggermente cambiato rispetto alla tradizione, ma perché stiamo scoprendo una ad una le canzoni che risultano essere le 10 migliori del 2006 grazie ai vostri voti. Ieri abbiamo scoperto nella prima parte le prime 4 canzoni, ce ne rimangono 6. Dobbiamo arrivare alla numero 1, che ha distaccato veramente di tanti voti qualunque altra canzone. Dalla 2 alla 10 più o meno erano lì, sempre nello stesso spazio di voti, poche differenze fra l'uno e l'altro, ma la prima veramente ha distanziato le altre di tantissimi voti. Avete più o meno 30 minuti da dover attendere per scoprire qual è questa canzone, anche se magari qualche sospetto potreste anche averlo. Giulio Caperdoni apre con la traccia numero 6, Jacob's Stories, Unfinished Idea, number 209. Save me and you. Il nome è Stuart Lee, lo pseudonimo, come già vi ho detto, Jacob's Stories. L'album esce per la Gravity Deep e ha per titolo Fledgling, il brano che ci siamo ascoltati. Uscito nel mese di ottobre, Unfinished Idea Number 209. Come anche nel mese di ottobre è l'altra traccia che prosegue verso l'alto, la classifica del 2006 di Eclettica. Traccia per la Sub Pop, quindi è presente anche l'etichetta di Seattle all'interno della nostra classifica, per un trio che è esordito nel 2004 ed è approdato appunto alla Sub Pop con il suo terzo album dal titolo Remember the Night Parties. Loro si chiamano Oxford Collapse, vengono da Brooklyn e il brano che ci fanno ascoltare al quinto posto della classifica del 2006 di Eclettica è Please Visit Your National Parks. Ottobre sembra essere il mese più prolifico, sembra essere il mese più prolifico, sì. Non mi sono fermato a fare questa analisi prima, lo sto notando adesso, visto che sto per annunciarvi il terzo disco in sequenza uscito nel mese di ottobre. Magari poi a posteriori mi posso anche concentrare su questa cosa e poi farvi avere i risultati. E fra l'altro anche l'unico disco, quello che occupa la quarta posizione delle migliori canzoni del 2006, l'unico disco con voce femminile, l'unica canzone con voce femminile, quella che ci stiamo per ascoltare. Alpha South Records è l'etichetta, lei è Miss Kaneki, l'album si intitola Collision Time e voi avete scelto la canzone, quella della gonna, quella dell'arcobaleno. Insomma, quella canzone lì, no? La conoscete bene. Si tratta di Under My Skirt, quarta posizione. Under my skirt, there's a rainbow that's toxic. Under my skirt, there's a dog that bites. You might lose an eye. You'll burn your fingers, but hey boy, you should try. I never eat fruit, I only drink coffee. I can't sleep at night, I just stare outside. Under my skirt, there's some sounds that swell. Tra l'altro Miss Kaneki delle prime 10 canzoni è anche l'unica di un artista che è stata votata anche per un altro pezzo, proprio quello che dà il titolo al suo album Collision Time. Ci sono stati artisti votati per più canzoni, ma di quelli presenti nelle prime 10 solo Miss Kaneki. Quindi abbiamo sentito dell'arcobaleno tossico, abbiamo sentito del cane che morde, tutte cose che possono essere sotto la sua gonna, sotto cui qualcuno di voi potrebbe avere anche sbirciato durante le sue date a fine 2006, date che fra l'altro erano legate anche ad un particolare contest realizzato appunto grazie ad Eclettica e grazie anche al supporto della Audio Globe. Oh, siamo arrivati al podio, siamo arrivati a 3 canzoni dalla vetta. Già quando nella prima parte di Eclettica vi ho trasmesso al 9° posto i My Scars con Introducing the Liquid Pets, vi ho detto che ci sarebbero state 2 canzoni italiane e di questo ero molto contento. Sono ancora più contento perché la canzone che vi sto per annunciare, quindi il podio, è un podio che vede presente anche l'Italia. E sono ancora più contento perché fra l'altro è un gruppo, il suo esordio, con il suo primo pezzo, un EP di presentazione per una band sassarese di nome Primo Chef del Cosmo. Questa canzone aveva colpito prima me, ma poi soprattutto ha colpito voi, una canzone che vi è rimasta in testa e voi l'avete votata, me l'avete fatto notare appunto con tutti i voti che avete dato ad Estasi Pura, che fra l'altro fa parte di un EP uscito per la Desvelos Records, etichetta anch'essa sarda, che non è stato commercializzato, ma è stato regalato esclusivamente in occasione dei concerti. dello stesso gruppo. Sono state realizzate solo 1000 copie e io qua fra le mie mani ho quella indicata come la 56 di 1000, tra l'altro tutto scritto a mano a dimostrare l'artigianalità della cosa. Primo chef del Cosmo EP, questa Estasi Pura, la posizione numero 3 delle 10 migliori canzoni del 2006 secondo gli ascoltatori di Eclettica. Mia luce, io sono un illuso spettatore che accenna a rincorrerti e sento che c'è, brucia veloce come se quel raggio che traspare dalla tua magia vocale riscaldasse le mie idee. Dolce netta musa inattaccabile, non ti scomponi, invadi alla sistematicità. Mentre già combatto ogni respiro, dormi morbido, ti adoro, me ne sto seduto qua a contemplare le magie di ieri, a ricordare quando tu non c'eri. Perché se non ti conosco è come se già ricordo di te. E sei estasi pura, pura. Quanti mari devo attraversare per potermi ritrovare nella mia stabilità? Ora che ho confuso ogni sentiero trasportandomi nel vero della passionalità, a contemplare le magie di ieri, a ricordare quando tu non c'eri. Perché se non ti conosco è come se già ricordo di te. E sei estasi pura, pura. Quanti mari devo attraversare, quanti mari devo attraversare, a contemplare le magie di ieri, a ricordare quando tu non c'eri. Perché se non ti conosco è come se già ricordo di te. E sei estasi pura. Primo chef del Cosmo con Estasi Pura, era questa la posizione numero 3, ce ne mancano due, visto che stiamo facendo un po' di geografia, vi annuncio che anche la seconda e la prima sono di zone geografiche diverse, quindi abbiamo un podio dal punto di vista geografico variegato. E altra informazione che vi voglio dare, nel caso già non ve l'abbia data, è che io non ho votato, cioè quindi le mie preferenze non hanno in alcun modo influenzato le posizioni all'interno di questa classifica, ma sono stati solo gli ascoltatori di Eclettica, come già vi ho detto, o inviando la lista delle 10 canzoni a Giulio at RadioRockFM.com oppure votandole sul sito myspace.com/eclettica. Vi dicevo posizione numero 2, e qui per riconfermare quanto già detto, il mese è ancora ottobre 2006, esattamente il 2 di ottobre, quando per la Monotram Records, etichetta inglese, ha pubblicato la band statunitense di nome The Low Lows. Fra l'altro stanno anche per arrivare in Italia nel prossimo mese di marzo, e sicuramente un po' a questo ha contribuito anche Eclettica con le tante trasmissioni in cui è passato soprattutto questo brano dei Low Lows. L'album da cui è estratto si intitola Fire on the Bright Sky e la posizione numero 2 è ovviamente ricoperta da Dear Flies, Love Spider. Yeah. E così siamo arrivati alla vetta. Qualche sospetto su chi possa essere in vetta? Mi sto emozionando anch'io, visto che siamo arrivati in cima. Vi ho detto prima che non ho influenzato, votando io stesso, le posizioni in classifica, però vi posso dire che assolutamente condivido la prima posizione. Per me è la canzone monumento del 2006, una canzone che fra l'altro esce da un disco d'esordio per un'etichetta francese, la Talitres Records, per una band inglese che proviene da Leeds. Si dice si siano incontrati in stazione e per questo ogni tanto suonano nei loro concerti vestiti con uniformi delle ferrovie inglesi. Purtroppo non sono annunciate date in Italia, ma queste date prima o poi spero ci saranno. Solo date, nel caso passiate da quelle parti, al South by Southwest ad Austin nel Texas e qualche data in Gran Bretagna. Sto parlando ovviamente degli I Like Trains. Come vi dicevo, un vero e proprio plebiscito per la canzone che apre Progress Reform, il loro album d'esordio. Così si chiude la classifica di Eclettica del 2006 con la prima posizione. E poi ci saranno due parti canoniche, standard, per chiudere questa prima settimana del 2007. Questa è Terra Nova. Loro sono gli I Like Trains. Can not be far. It cannot. Eclettica, fine della seconda parte.